Riflessi d'oltre tedere. Una buona domenica da Katia Caramelli. L'8 marzo si festeggerà la donna e noi abbiamo voluto farlo con una persona che tutti i giorni sostiene le donne. Anzi, fa nascere le mamme che sono in loro. Si chiama Paola Bonzi. Da 25 anni lavora al centro di aiuto alla vita presso la clinica Mangiagalli di Milano. Per la maggioranza delle situazioni i problemi sono di ordine economico, cioè una donna da sola non ce la fa spesso a portare avanti la sua gravidanza e non riesce a pensarsi con un bambino da mantenere. E noi offriamo una strada che è quella del sostegno, sicuramente sostegno psicologico, ma anche sostegno materiale, quindi economico, quindi fatto anche delle cose che serviranno. Le seguiamo fino all'anno del bambino, quindi per 18 mesi, con colloqui mensili, facciamo la preparazione alla nascita. Abbiamo il pediatra, facciamo il massaggio del neonato, cioè tutte attività per verificare che questo bambino nato cresca poi nel modo migliore. Quanti bimbi avete fatto nascere in questi anni? Sono nati 12.126 bimbi alla fine del 2009. Si può dire che oltre a far nascere bimbi fate nascere anche delle mamme? Se di slogan si può parlare, cioè veramente l'accoglienza offerta alla donna è ciò che permette alla donna di far nascere il suo senso materno. Io non credo molto nel senso materno innato, ma credo che si possa molto recuperare, e allora quando incontrano una persona assolutamente strana e sconosciuta che ti accoglie per quello che sei, come sei, magari ti offre quello che ti manca, ecco, questo fa diventare accoglienti nei confronti della vita che hanno nel grembo, insomma. Direi che sono figlie nostre, soprattutto le mamme, perché poi quando i bambini sono nati spesso me li portano e vogliono che io li prenda in braccio e dicono: ah, non ci fosse stata lei, questo bambino non ci sarebbe, eccetera. Rimando la palla e dico: chi è entrato in sala parto, chi ha spinto questo bambino nella vita, perché c'è questo desiderio che la donna si riappropri della sua maternità, insomma. Il 22 febbraio di 5 anni fa moriva Don Luigi Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione. Abbiamo raccolto il ricordo di Massimo Camisasca, superiore generale della Fraternità dei Missionari di San Carlo Borromeo. Recentemente ha pubblicato il libro Padre. Una personalità polimorfa, infatti è difficile coglierlo con una sola parola. Don Giussani innanzitutto era un uomo vivo, un uomo curioso, un uomo attento a tutto ciò che accadeva e soprattutto attento alle persone, desideroso di stabilire nessi, rapporti, poi di camminare assieme verso Dio. Non ebbe vita facile perché era additato dai rivoluzionari come un tradizionalista e dai tradizionalisti come un innovatore. È verissimo, soprattutto Don Giussani era un provocatore, cioè un uomo che desiderava rompere la crosta sedimentata della storia per mostrare la novità portata da Cristo, e in questo senso ha trovato molte opposizioni. Io direi che resta soprattutto da scoprire la profondità dell'ascito di parola e di insegnamento che lui ha dato, di lettura della vita. Sono convinto che Don Giussani è come un iceberg di cui noi conosciamo finora soltanto la punta. Nel suo libro Padre si pone una domanda fondamentale: ci saranno ancora sacerdoti? Sì, è una provocazione, però è anche una domanda vera, perché nel nostro Occidente in realtà il numero dei sacerdoti continua a diminuire, ma il sottotitolo vuole soprattutto riferirsi alla qualità della vita sacerdotale, e il libro vuole essere come una descrizione di quello che io ho vissuto e anche un'indicazione di strada per la rinascita della vita dei sacerdoti. Il cuore del libro, direi, sono le questioni affettive. perché io penso che oggi c'è un dramma nella vita di molti sacerdoti ed è la solitudine, e quindi può sorgere la domanda: ma la nostra è una vita diminuita? Io indico invece che esiste la possibilità per i sacerdoti dell'amicizia, della figliolanza, della paternità, di una vita affettiva molto piena. Ora c'è Don Willy Volonté, ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. La filastrocca sulle incompatibilità tra scienza e religione sta diventando ripetitiva e provoca un senso di irritante fastidio. In certi casi il dialogo si rivela una pura perdita di tempo, come esordisce Giorgio Israel, professore ordinario nel Dipartimento di Matematica all'Università La Sapienza di Roma. Ma il professor Umberto Veronesi, notissimo oncologo, lo afferma ancora con disinvoltura. Ha detto proprio così il professore su una rete televisiva: scienza e fede non possono andare d'accordo, perché la fede presuppone di credere ciecamente in qualcosa di rivelato nel passato, una specie di leggenda che ancora adesso persiste, senza il diritto di mettere in dubbio i misteri e dogmi che vanno accettati o meglio subiti. Per chi ha l'avventura di insegnare teologia all'università, sentire queste cose ha la sensazione di odorare cose di altre epoche, dove la polvere del tempo si è depositata vecchia sul ragionare, come se il ragionamento si fosse fermato all'Ottocento. Mi chiedo che cosa direbbe il professor Veronesi se facesse affermazioni, io che insegno teologia, sulle sue ultime teorie riguardanti il sorgere dei tumori. Gli autodidatti in teologia hanno prodotto solo allucinazioni. Meglio rimanere nel campo tracciato dai grandi geni scientifici, quelli sì credenti e inventori come Kepler, Galileo, Pasteur, Alexis Carrel e Jérôme Lejeune, per terminare con la frase di un certo Albert Einstein, che affermò: la religione senza la scienza è cieca, ma la scienza senza la religione è zoppa.